Il punto di Stefano Folli. Oggi pomeriggio, quando Napolitano giurerà per la seconda volta come presidente, ascolteremo dalla sua viva voce le sue intenzioni circa il governo che sta per nascere. Sappiamo fin d'ora che sarà in tutto e per tutto un governo del presidente, nel senso che prenderà forma dalla volontà del capo dello Stato, una volontà che i partiti non potranno pretendere di condizionare o piegare alle loro esigenze interne. A 2 mesi dalle elezioni il Paese ha drammaticamente bisogno di essere governato. A Napolitano una maggioranza di partiti incapaci di prendere qualsiasi decisione, tra cui un PD completamente lacerato, ha chiesto di farsi carico delle istituzioni, ha delegato di salvarci dal loro fallimento. Mai come stavolta il Presidente della Repubblica userà con determinazione i suoi poteri costituzionali e mai come stavolta i partiti avranno il dovere di servire l'interesse generale anziché quello di fazione.